America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Hello everyone. Guten Abend. I want to thank my great partner and friend Chancellor Merkel. Barack Obama è in Europa, vi ho fatto ascoltare un passaggio del suo discorso inaugurale alla Hannover Messe Trade Fair, una delle fiere più importanti del mondo, 5.000 aziende nel settore tecnologico manifatturiero. Obama è in Europa perché in Europa ci sono molti problemi, parteciperà oggi a un vertice importante e dunque la copertina di questa settimana la voglio proprio dedicare all'Europa, più che al viaggio di Barack Obama in Europa. Si è incontrato ieri a Schloss Herrhausen con la Merkel, ma la cosa più importante di oggi è il vertice con altri 4 capi di Stato e di governo europei, dunque Obama da una parte, Matteo Renzi, David Cameron, François Hollande e naturalmente Angela Merkel. Vertice per parlare di terrorismo, di condivisione di intelligence, cosa molto importante, ma anche di economia, di libero commercio, di rifugiati, di Siria. Insomma, ci sono molti argomenti caldi in un'Europa che sta passando, devo dire, un momento difficile. Sentiamo Obama nella conferenza stampa di ieri con la Merkel su uno di questi temi molto caldi e che portano molta divisione nella nostra Unione. What's happening with respect to her position on refugees here in Europe? She is on the right side of history on this. And for her to take on some very tough politics. Ecco, Obama qui interviene sui rifugiati, sul tema rifugiati, dice che Angela Merkel è dalla parte giusta della storia, perché io comprendo, dice Obama, le aspirazioni di chi fugge da paesi dove la libertà è negata. Le cose naturalmente non sono mai semplici, ma è importante, dice Obama, tenere le porte aperte piuttosto che chiuderle. And the fact is that, for example, in the Trans-Pacific Partnership that we've negotiated. Ecco, vorrei chiudere con un breve commento. Chi si ostina a credere che l'America tema l'Unione Europea come possibile concorrente globale è fuori strada, perché i veri concorrenti dell'America sono la Cina, la Russia, in qualche misura l'India. I veri problemi americani sono la crisi in Medio Oriente, nel senso più lato del termine, dai problemi in Arabia Saudita al terrorismo dell'ISIS. Dunque, quando Obama dice, come ha detto ieri, come ha ripetuto oggi, che l'America vuole un'Europa unita, forte, non fa solo retorica, lo dice ormai quasi con un senso di urgenza assoluta, perché gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e hanno bisogno di un'Europa forte per contrastare le sfide geopolitiche e quelle all'ordine internazionale. Per questo, secondo me, fra i molti infortuni che Barack Obama ha avuto in politica estera, devo dire che una spaccatura dell'Europa diventerebbe per l'America e per lui uno dei più gravi passi indietro sul piano internazionale e sicuramente una macchia per questo presidente che all'inizio del suo mandato disse, ricordo, fece il primo viaggio con lui in Cina, disse che sarebbe stato il primo presidente del Pacifico. E perché? Beh, perché era convinto che il fronte transatlantico fosse ormai talmente solido da non dover essere messo in discussione, non si doveva preoccupare del rapporto con l'Europa, non si doveva preoccupare di un'Europa avviata verso quella che sembrava essere un'integrazione sempre più forte. E beh, purtroppo 8 anni dopo dobbiamo tutti renderci conto che la partita è molto più difficile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di forze distruttive, di un'Europa in difficoltà. Oggi i leader insieme cercano di rilanciare un messaggio invece per l'unità piuttosto che per la divisione. Dunque, degli XX vi propongo Together, insieme. You said you don't have to speak. Looked at me that way. It's like you knew me.